L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Bello. Io mi so muovere bene quassù. Domani ti porto dove crescono le stelle alpine. C'è un'economia e un luogo che sono la riscoperta di questa estate, la montagna. Ben ritrovati da Anna Migliorati, mai come quest'anno si parla di boom, stando ai dati, alle prenotazioni, ma anche a quello che già vediamo. Una montagna che abbiamo raccontato d'inverno vive ormai di neve artificiale più che naturale, una macchina economica rodata. Un grande parco giochi, dice qualcuno, una sostenibilità necessaria per la tenuta economica, ribatte qualcun altro. Fatto sta che è indubbio che l'estate non è la stagione economica per eccellenza per la montagna, anche se negli ultimi anni si è rilanciata con un'economia, come si dice, dell'esperienza, dall'avventura alla mountain bike, raggiungendo tutto sommato un pubblico che si è andato allargando. Un pubblico, come d'inverno, da una parte di appassionati, dall'altro di chi ha voglia di cambiare e provare altro. Quest'anno, è uno dei pochi settori che viaggia col segno più. Quale montagna vogliamo però? Quale funziona? Mai come quest'anno è tutto esaurito in alta quota e mai come quest'anno il dibattito è aperto. E allora, all'economia delle piccole cose, chi meglio per parlare di montagna del presidente del CAI, il Club Alpino Italiano, Vincenzo Torti. Anna, buongiorno, che piacere sentirla. Il piccolo nasconde e riserva tesori e questi sono da andare a scoprire. Diciamo che questa estate per la montagna è un'estate un po' particolare, al di là che si vedono campagne pubblicitarie un po' su tutti i giornali che ricordano quanto la montagna sia aria aperta, l'impossibilità di muoversi. Ha riportato un po' sotto gli occhi di tutti quest'altra realtà di vacanze e non solo, è d'accordo? Questa grande attenzione verso la vacanza in montagna è un dato di fatto oggettivo. Beh, intanto i rifugi, perché a rispetto di quello che si temeva, queste prime giornate in montagna con i rifugi stanno certificando una presenza superiore a quanto si immaginasse. Per dare un esempio concreto, la regione Piemonte agevola l'acquisto del materiale per l'accoglienza esterna, quindi per la ristorazione esterna ai rifugi. Ebbene, alcuni rifugi del Piemonte avevano il tutto esaurito all'esterno per fare la ristorazione, che le dico subito, è certamente con una sua valenza positiva, ma non le nascondo una certa preoccupazione, perché cosa accade? I frequentatori della montagna, nella stragrande maggioranza, hanno ben presenti quali sono le positività dell'andare in montagna. Il traffico automobilistico che aumenta, il maggior numero di presenze sui sentieri o nei punti d'accoglienza sono certamente un qualcosa di distonico rispetto alla ricerca della tranquillità. Diciamo che quando si parla di turismo in montagna coesistono questi due elementi. Da un certo punto di vista la crescita è positiva dal punto di vista dei numeri, degli introiti, della sostenibilità economica. Dall'altra va un po' a collidere con quella che è la natura del vacanza in montagna. Ha sintetizzato in modo perfetto. Inevitabilmente dove c'è numero, che cosa accade? Che la nostra speranza, quello su cui cerchiamo di lavorare, ricordare a tutti come ci si rapporta con la montagna, che al di là delle regole Covid, ma soprattutto ricordando intanto che la montagna non tollera l'improvvisazione, si va con persone competenti e ci si attiene ai propri limiti, e quando si vogliono superare i propri limiti si va con qualcuno che ne sa di più e che quindi ci permette di fare qualcosa di più impegnativo. Vedremo anche alcune località, in realtà già lo fanno da anni, ma vedremo anche località sempre più a numero chiuso? Allora, è chiaro che è triste dover pensare la montagna a numero chiuso, ma d'altro canto i francesi ci hanno insegnato, mettendo i tornelli alla salita francese al Monte Bianco, che quando i numeri superano i limiti di tollerabilità ambientale o di sicurezza, bisogna porre rimedio. Sarebbe davvero triste che questo successo estivo della montagna come meta riscoperta in positivo si trasformasse in una serie di limitazioni e di vincoli. La soluzione ci sarebbe, invece di andare tutti negli stessi posti, cerchiamo nuove località, speriamo che i nuovi frequentatori della montagna non siano degli invasori che vanno di ripiego, perché oggi il mare è un po' più difficoltoso, ma siano delle persone che fanno una scelta consapevole. Quali numeri vi aspettate? Molto elevati, molto elevati. Sicuramente io sento percentuali di crescita del 5-8%. Che per la montagna è tantissimo. Per la montagna è tantissimo. E siamo alle solite, troppi non va bene, troppo pochi nemmeno. Pochi soldi alla montagna non funziona, troppi arrivi sono difficili da gestire. Con tanti nuovi settori che ruotano soprattutto attorno alle esperienze, dicevamo, e che ci traghettano invece in avanti. Numeri sentivamo di crescita che per questo settore era difficile prevedere, ovviamente non per tutti, a soffrire più gli alberghi delle case private, lo abbiamo già detto, meglio i rifugi di bar e ristoranti e poi c'è la mezza montagna. E allora... facciamo i conti. E ritroviamo ancora con noi Fabio Corno, docente all'Università Bicocca, bentornato. Grazie, un piacere. Ancora una volta la nostra guida nel mondo del turismo, parliamo di montagna questa volta, forse il settore turistico che è più di tutti è la riscoperta di quest'anno. Assolutamente sì, stiamo parlando di fatto di una stagione estiva che nella logica del turismo montano non incide molto, ma in ogni caso è la destinazione che tra tutte guadagna spazi rispetto alle dinamiche degli anni precedenti. Rispetto alla rilevazione di 19% degli italiani che hanno come meta prefissa la montagna, si è passati al 23%, 5 punti in più rispetto al scorso anno, quindi sicuramente un più. La montagna però non è per tutti e non è tutta uguale, molto del turismo montano ad esempio è low cost, il panino nello zaino. Assolutamente, è low cost, ci sono molti turisti che vanno per la giornata in montagna, pochi e sempre meno anche quest'anno pensano di avere come destinazione un albergo. Il 23% delle seconde case non è occupato da persone residenti e in questo senso sono proprio le seconde case a fare da padrone, anche qui con strutture recettive alberghiere che invece sono penalizzate proprio a causa dell'incertezza con riferimento alla sanitizzazione. Ecco, sanificazione che è il vero costo di questa economia. Direi proprio di sì, è il vero costo anche perché gli spazi nelle strutture alpine o comunque montane sono spesso esigui e promiscui e di fatto si sa poco. Tenga conto, tra le varie incertezze, oltre che per gli alberghi, abbiamo il tema degli impianti a fune di risalita che funzionano in sicurezza, non si sa bene perché hanno avuto uno stop forzato, una normativa molto stringente, nelle cabine la capienza è ridotta a 2/3, a reazione problematica, insomma alla fine è obbligatoria la mascherina, uno che va in montagna. Ed è forse, ecco, la cabinovia quel tipo di montagna che è aperto e consentito a tutti, non solo appunto che consente di passare da quel 18% a quel 23% anche di non appassionatissimi. Assolutamente sì, c'è comunque anche pensi ai rifugi, so che ne avete parlato un altro esperto, di fatto da rifugi che sono stati chiusi c'è una grande aspettativa di un rilancio di queste strutture. Montagna che non è solo Alpi. No, montagna che non è solo Alpi, abbiamo l'Appennino Reggiano ad esempio, dove si registra un tutto esaurito, dove l'estate 2020 vede le agenzie immobiliari sommerse da richieste di case con giardino, meglio se con piscina, non solo nella zona più alta dell'Appennino ma anche in quella vicino alla pianura. Quindi di fatto sono zone dove le persone pensano di portare la famiglia in vacanza e magari la mezza montagna. Mezza montagna e fare la spola con i luoghi di lavoro in pianura. Grazie allora per essere stato ancora con noi. Ci ritroveremo anche in altre occasioni. Buona passeggiata a tutti. Oggi il caso di dirlo, in questa lunga estate di Economia delle Piccole Cose. Tutte le nostre storie sul nostro sito www.radio24.it. Economia delle Piccole Cose, scriveteci. Aspettiamo commenti, critiche e suggerimenti. Un saluto ancora da Anna Migliorati e alla prossima.